arrovellando il pensiero nei massimi sistemi, può capitare che la lingua, per esprimerlo, questo pensiero, tradisca problemucci più spiccioli. Tutto il contrario, insomma, del motto di Ernesto di Brandeburgo, non per Angusta ad Augusta, ma per Augusta ad Angusta, come dire, per vie eccelse a luoghi angusti. Così, il sociologo Alberoni, Corriere della Sera 5 febbraio scorso, dedica un accorato articolo a quegli idealisti che realizzano grandi imprese disinteressatamente, grandi imprese che immancabilmente vengono poi distrutte da orde di saccheggiatori, profittatori e burocrati, dice lui, cioè da coloro che non hanno mai capito lo spirito dell'opera, il misterioso disegno che la teneva in vita e che, con la loro avidità e incompetenza, in pochi anni la mandano in rovina. L'esempio che porta Alberoni, a dire il vero, non è dei più brillanti, perché come idealista venerabile per il suo illuminato disinteresse cita Cristoforo Colombo, uno la cui storia, quella vera, non quella dei film e non quella delle celebrazioni patriottarde, la cui storia non è da prendere esempio da nessuna persona per bene. Geografo pasticcione, né noto imbroglione, sbarcò ad Haiti il 6 dicembre del 1492. Credette che fosse il Giappone e nel 1890, 1494, dopo aver esplorato per 50 giorni le coste di Cuba, costrinse l'equipaggio a giurare davanti a un notaio che si trattava della Cina. Noto imbroglione, soffriva di gravi manie religiose, tanto da pensare ad una crociata per la riconquista della Terra Santa grazie all'oro che avrebbe dovuto ricavare dal cipango, tanto anche da firmarsi con un crittogramma che significava colui che porta a Cristo, e tanto, Cristoforo, e tanto da interpretare anche perfino le parole del profeta Isaia come a lui dedicate. Basta dare un'occhiata ai suoi scritti e approfondire taluni aspetti della sua vicenda umana e scientifica per capire che, anzi, dei saccheggiatori, dei profittatori, dei burocrati, Colombo semmai può aspirare al ruolo di nume tutelare. Ma Alberoni non è sociologo da preoccuparsene. La storia, per lui è un repertorio di luoghi comuni dimostrativi, di modelli per una pedagogia facilitata e le persone che l'hanno vissuta gli interessano soltanto in quanto personaggi, in quanto maschere di una commedia in cui va celebrato soltanto un lieto fine per l'autore, il successo. Avrei allora steso un velo pietoso sull'articolo, quello del 5 febbraio scorso, se giorni dopo la cronaca non me ne avesse fatto comprendere, il senso più riposto. Veniamo a sapere che dal 1997 questo Alberoni era magnifico rettore di una università e che si è dimesso. Assicura lui di essersi invano battuto contro le pratiche di corruzione e dichiara al mondo che se ne va per non essere complice di chi considera dei distruttori e lasciare solo a loro la responsabilità. Lui non può e non vuole assistere alla corruzione di un'impresa che è stata intrapresa con scopi nobili e disinteressati. Sono parole sue. Paventata querela del Consiglio d'amministrazione, il sociologo Alberoni abbia voluto precisare che a corruzione spirituale lui si riferiva, questa è questione degna di far parte di un manuale di sopravvivenza nelle giungle d'asfalto, ma che non aggiunge né toglie alcunché al nostro schema interpretativo. L'idealista, L'idealista, una di quelle pochissime persone disinteressate che lottano per realizzare missioni, sogni, vocazioni, cioè tutto il bagaglio classico del sociologo da fotoromanzo, l'idealista che subirà l'onta dei saccheggiatori, dei profittatori, dei burocrati, insomma, quell'idealista era lui stesso. Che lungimirante aveva fornito in anticipo la teoria con la quale comprendere la pratica che sarebbe seguita. Come prenotarsi l'aureola prima del martirio, sempre che un martirio previsto e coccolato sia ancora tale e non un trionfo. Così, ecco, così se è lui nella parte di Cristoforo Colombo, se ne spiegano perfettamente le carenze storiografiche. Approfondire le indagini su se stessi non conviene mai. Viene fatto notare da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università, orfana di tanto magnifico rettore, che detto che costui si è distinto per aver fatto assumere come docente la propria signora. Viene voglia di notare che nei giorni scorsi, il 23 febbraio, è uscito in libreria il nuovo libro del sociologo medesimo. Si intitola La Speranza e viene pubblicizzato con uno slogan: per costruire la speranza bastano un cuore generoso e una mente libera. Il primo, allora, almeno relativamente ai propri cari, non gli manca. La seconda, la mente libera, ammesso e non concesso che della mente si possa parlare come ne parlerebbe un'impresa di traslochi, diciamo che sia a buon punto. Libera da preoccupazioni di ordine metodologico lo è già. Per esempio, per iniziarci al commendevole esempio di Cristoforo Colombo, Alberoni si rifà addirittura alla sceneggiatura di 1492, La scoperta del paradiso, un imbarazzantissimo film che Ridley Scott diresse nel 92, e accredita così Colombo di aver affermato di fronte alle meraviglie della cosiddetta civiltà per difendersi dalle accuse di chi lo criticava che tutto questo è stato creato da idealisti come lui. Non ricordo se fra le tante incongruenze nel film figurasse anche questa, ma so che per un sociologo magnifico rettore è piuttosto grave non rilevare che Colombo Cristoforo mai e poi mai avrebbe potuto usare la parola idealista, perché è entrata in uso almeno un centinaio di anni dopo la sua morte e peraltro in tutt'altro senso, perché la usava Leibniz per definire la filosofia di Platone. Dal Festival del Cinema di Berlino, che si è chiuso la settimana scorsa, giungono le ultime istruzioni per come dovremmo scandalizzarci noi tutti nei prossimi mesi. Quell'organo commerciale di noi, che per i mass media sono le nostre coscienze, dovrebbe vedersela con il film Series 7, The Contenders, del debuttante Daniel Minahan. È un film dove si racconta di sei concorrenti che, cercando di eliminarsi fisicamente l'un l'altro, daranno vita ad un nuovo gioco televisivo. Vita al gioco e morte, conseguentemente, ai cinque meno fortunati fra loro. L'idea narrativa è vecchissima. Proviene da un racconto di Robert Shickley, La settima vittima, e con l'aggiunta di tre unità ha già costituito materia per La decima vittima, un film che Elio Petri diresse nel 1965. All'epoca, l'omicidio in diretta soddisfaceva più esigenze sociali che televisive, cioè si metteva più l'accento sulla sua funzione calmieratrice dell'aggressività che non sullo spettacolo. E ciò dovrebbe rivelare, come di solito si pecchi di ottimismo, che la televisione potesse diventare una sorta di stato nello stato e di sovrastato al contempo, nemmeno era ipotizzato nei peggiori incubi di Orwell. Nell'apparato retorico con cui Daniel Minahan, il regista, cerca di predisporre, diciamo così, la percezione del suo film, ho colto un argomento del tutto fasullo di cui so bene la diretta ascendenza. Dice il regista che per realizzare il suo film come Dio comanda ha dovuto studiare tutti i reality show. I reality show escogitati in questi anni dalla televisione, perché per criticare la televisione, che ovviamente sarebbe il suo apprezzabile intento, per criticare la televisione devi usare il suo linguaggio. Balle. Una critica è costituita prima di tutto di pensiero, prima che di linguaggio, di pensiero che deve essere trasmissibile con il linguaggio meno ambiguo possibile. Le vie del nostro inferno quotidiano sono lastricate di critiche che lasciano le cose come stanno, di gesti liberatori che incatenano, di liberalismi che schiacciano le libertà individuali, di comunismi che non mettono niente in comune e di trasgressioni massificanti. L'argomento secondo cui una disciplina sarebbe criticabile soltanto, per così dire, dall'interno, può essere fatto risalire anche a Jung, che in un saggio del 1907, Psicologia della demenza precox, afferma che le obiezioni mosse fino allora alla psicanalisi freudiana non potevano essere prese in considerazione. Perché? Perché può contraddire Freud, diceva Jung allora, solo chi abbia applicato egli stesso largamente il metodo psicanalitico. Così, alla faccia della circolarità del sapere scientifico, si dorme fra quattro guanciali e si costruisce il potere delle corporazioni. Le strade di Jung e di Freud, come è noto, si divideranno presto, con accuse rancorose da entrambe le parti. E tuttavia l'argomento che aveva escogitato Jung avrà successo. Anni dopo, lo psicoterapeuta Ernst Arms scrisse un saggio che in Italia fu tradotto come Carl Gustav Jung, difensore di Freud e degli ebrei. Un saggio che, sia detto fra parentesi, invece mi confermò tutto l'astio nutrito da Jung nei confronti di Freud e mi svelò la portata non trascurabile dell'antisemitismo di Jung. Vabbè, lì in questo saggio Arms dichiara che soltanto chi capisce interamente Jung dovrebbe avere il diritto di contraddirlo. Sì, allora, si dovesse applicare il medesimo criterio alle teorie di Papa Wojtyla, di Berlusconi, di Bossi o del mago Otelma, tutti costoro e i loro simili sarebbero in una botte di ferro.